35. Nella prigione di Albany si cenava a pane rancido e acqua calda, una zuppa molliccia spesso arricchita della carne dei vermi. Se imparavi a cacciare, potevi permetterti una dieta migliore: ragni e scarafaggi, topi, lombrichi. La lucertola era la preda più ambita. Mangiando occhi chiusi potevi convincerti che fosse anguilla. Per 8 mesi Walter non aveva toccato altro cibo. I carcerieri si annoiavano a morte. Tra i loro passatempi, la frusta era di gran lunga il più innocuo. Per 8 mesi Walter aveva subito umiliazioni che la lingua si rifiutava di raccontare. Poi si era finto malato ed era riuscito a evadere. Strinse le redini e si guardò alle spalle per scacciare i ricordi. 200 ranger marciavano schierati lungo il sentiero. Il grosso dei Seneca si era sparpagliato nel bosco per prevenire agguati. Sayenga Ragta, avvolto in un mantello nero, chiudeva la fila in sella a un puro sangue. L'animale era un regalo di suo padre al grande capo di guerra. Purtroppo John Butler non s'era potuto aggregare alla nuova spedizione per via di una brutta polmonite, e così Walter aveva ottenuto il comando e il compito di reclutare lungo il cammino. L'esperienza del padre gli sarebbe mancata, questo lo sapeva, ma l'inverno era alle porte e non c'era tempo da perdere. La madre e il fratello erano ancora in galera. Per riscattarli servivano prigionieri. Walter era affamato di vendetta ed era grande abbastanza per procurarsela da solo. Svernare a Fornagara non rientrava nei piani di Joseph. Avrebbe preferito Oquaga, una base più comoda, più ricca e meno gelata. Ma Oquaga non c'era più, e nemmeno una dilla. I continentali e la milizia avevano attaccato i villaggi approfittando della sua assenza. Le più belle fattorie della contea ridotte a ruderi anneriti. Bruciate le provviste, le piante di mais decapitate, i frutteti erano filari di ceppi, le bestie giacevano sgozzate nel sangue. Donne e bambini erano fuggiti per tempo, ma ora le famiglie erano disperse e con loro i volontari. Joseph sapeva che radunarli di nuovo a primavera non sarebbe stato facile. Sulla strada verso occidente lo seguivano a malapena 80 di uomini, molti con i parenti al seguito. Altre bocche da sfamare per il campo profughi di Fornagara. Nel primo pomeriggio Daniel Secord tornò all'avanguardia con la notizia. Il giovane Butler si era accampato a Tioga con un reggimento di ranger e almeno 300 guerrieri Seneca. Walter Butler? Non era prigioniero ad Albany? Non più, è evaso ed è qui per incontrarti. Dice che la stagione di caccia non è ancora finita. Arrivarono dopo il crepuscolo, in un serpeggiare di torce. La notte era fredda e il vento odorava di neve. Walter Butler li accolse con entusiasmo e un piatto di fagioli per placare la fame. Mentre le bocche si riempivano, fece la proposta: unire le forze per un'incursione a Cherry Valley, l'insediamento più ricco dell'intera vallata. Pochi mesi prima i ribelli ci avevano eretto un forte, ma si diceva che il colonnello Holden fosse più esperto di donne che di guarnigioni. «Ci vivono molti realisti laggiù», osservò Joseph. «Brava gente, come il giudice Wells. Bisognerà avvisarli prima di attaccare». L'altro addentò una testa di capretto. «Meglio non rischiare, date retta. Dio riconoscerà i suoi». «Dio, senza dubbio», pensò Joseph, «ma non certo i Seneca». Il tono spavaldo del ragazzo non gli piaceva, il bersaglio prescelto nemmeno. L'istinto suggeriva di lasciar perdere. La ragione diceva che solo restando avrebbe evitato un massacro. «Verremo con voi», disse alla fine. «Molto bene, dite ai vostri uomini che la paga è generosa. Devono firmare entro stasera». Henry Hoog alzò la faccia della scodella. «Firmare cosa?» «L'arruolamento», replicò il giovane, l'aria supponente di chi spiega un'ovvietà. «I ranger di John Butler sono l'unica formazione autorizzata a combattere in questa zona». Joseph capì che il ragazzo non gli era andato incontro come semplice alleato. Il padre aveva un incarico ufficiale e riceveva una gratifica per ogni nuova recluta. Per lui i volontari di Brent erano un mancato guadagno. La voglia di alzarsi e andar via era sempre più difficile da dominare. «Non siete sciocco, Walter. I miei uomini sono volontari, hanno scelto di combattere con me e continueranno a farlo finché lo vorranno». Gli occhi del giovane ruggirono, ma la bocca rimase chiusa. Lanciò nel fuoco il teschio del capretto. Si alzò in piedi. «E sia!» disse forte e chiaro, «ma non devono portare insegne distintive, nemmeno quell'accetto giallo che tengono sui cappelli, e i bianchi dovranno evitare le pitture di guerra». Una cupola di silenzio racchiuse il bivacco. Dai fuochi vicini, grida e canzoni si alzarono in volo. Sayen Garakta aspettò la traduzione dell'ultima battuta, ma fu il primo a parlare. «Capitano Butler è giusto, fratello!» L'inglese del capo Seneca sembrava una ruota ammaccata. «Abbiamo visto, Auriscani, questi tuoi bianchi che fanno battaglia con le pitture, e dico che tutti noi combattiamo con più forza se ogni uomo è fedele ai suoi antenati». «Tuo nonno non conosceva il fucile», sbottò Harry Hogg. «Il mio sgobbava tutto l'anno per mantenere un parroco del cazzo. Si fottano gli antenati». Gettò la scodella nella polvere, si alzò, spazzò i calzoni con la mano e sparì nel buio. Il fratello lo imitò, seguito dagli altri volontari che sedevano attorno al fuoco. Per ultimo Daniel Secord. Sputò un proiettile di tabacco e si accodò al gruppo. Joseph vide il piccolo corteo avvicinarsi agli altri bivacchi e ingrossarsi pian piano. Capì che Cherry Valley sarebbe stato capitano senza esercito. Di nuovo valutò il da farsi. Scelse di restare.